La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:08 primi e 8 secondi. Vi ringrazio per l'ascolto in diretto in podcast, Oscar Giannino come sempre. E vi dice di che cosa parliamo oggi. Oggi parliamo di università e lo facciamo avendo due spunti di cronaca, perché parleremo soprattutto, non solo, ma soprattutto del fatto che gli Atenei nelle loro procedure di selezione dei docenti continuano a rappresentare un problema. Quindi l'appello a tutti coloro che ritenessero di aver avuto esperienza diretta in concorsi o procedure di abilitazione in cui degli elementi sono intervenuti e vi hanno danneggiato, non vi tornano, o avete addirittura intrapreso azioni impugnative, presentato esposti, beh, questo è il giorno giusto per darci la vostra testimonianza, chiamandoci all'800240024, quindi stiamo parlando di tutta la vastissima platea dei ricercatori, tanto per cominciare, che fanno le abilitazioni e iniziano il lento percorso per, dopo l'abilitazione, la chiamata in cattedra. Sapete che abbiamo una università, ma questo riguarda il totale della scuola italiana, riguarda la nostra pubblica amministrazione, ferocemente caratterizzata da un'età media elevatissima rispetto agli altri paesi avanzati. Sono rarissimi i casi di trentenni in cattedra nella nostra università, ma i due spunti da cui traiamo l'occasione per questa puntata, per vedere dati e fatti, sono innanzitutto l'amplissima messa di dati sull'università italiana che sono stati messi nel primo rapporto presentato dalla Corte dei Conti sulla legge 240/2010, cioè sulla riforma Gelmini, che nacque nel tentativo, tra le altre cose, di porre un riparo, quindi con modifiche alle procedure per l'abilitazione e l'insegnamento universitario, proprio di fronte all'eccesso di chiamate in cattedra frutto di relazioni personali, preferenze personali rispetto allo score invece rigoroso, a cominciare dalla bibliometria e dei titoli nel processo di selezione, tutti incardinati o moltissime volte, troppe volte incardinati su coloro che sono formati dai tra virgolette maestri accademici nelle stesse università, e quindi senza chiamate da fuori o per merito, quando poi non ci sono i tanti casi di cui le procure si occupano in mezzo paese, che poi portano anche a indagini penali. Anni fa ci fu una maxi indagine per la classe di abilitazione che riguardava il diritto pubblico e costituzionale. Pochi mesi fa, lo ricorderete, ce ne siamo occupati, una cosa del tutto analoga, con un'indagine penale che ha riguardato un vastissimo numero, tra l'altro, di coloro che sono in cattedra per diritto tributario nel nostro paese. E a pioggia basta fare una qualunque ricerca sui giornali italiani mettendo concorsi universitari truccati, vedrete a macchia di leopardo verificare decine e decine di casi di esposti, di indagini aperte, eccetera eccetera, di rettori indagati, di fior di accademici indagati e così via. Ecco, quindi questo è, diciamo, quando si arriva proprio al sospetto di violazione patente delle procedure di legge, ma resta il sistema chiuso. E infatti questo è il nostro primo spunto, perché oggi sono le 24 ore, per chi volesse approfondire, ha una mezza pagina, proprio pagina 15, dedicata a questo report della Corte dei Conti. Il titolo è: Atenei ancora troppo chiusi, Corte dei Conti, oltre metà dei posti ai docenti interni e poche chiamate dirette. E questo è il nostro primo spunto. Il secondo spunto è la nascita a Roma, proprio pochissimi giorni fa, due settimane fa, di una associazione composta da docenti e ricercatori di alcuni atenei italiani che hanno purtroppo subito abusi certificati nelle procedure di concorso, nel senso che hanno registrato conversazioni con rettori, presidente di commissione, e hanno fatto esposti da cui sono nate indagini, e hanno deciso adesso di dare vita a un'associazione, che un'organizzazione no profit che si chiama Trasparenza e Merito, l'università che vogliamo, sinteticamente definita università pulita. E quindi avremo anche un diretto rappresentante di questa forma di organizzazione dal basso di operatori dell'università che dicono: noi abbiamo toccato con mano, stiamo facendo anche il nostro dovere civile di segnalatori di ciò che non funziona a nostro danno, ma a danno quindi del merito. Allora, innanzitutto partiamo però dal rapporto della Corte dei Conti. Ed è con noi, e lo ringrazio per essersi reso disponibile, appunto il collega del Sole 24 Ore, che questa mattina firma l'ampio articolo che trae spunto dalla enorme messa di dati che la Corte dei Conti ha messo in fila in questo suo primo rapporto sulla legge 240-2010. Marzio Bartoloni, buon pomeriggio e grazie di essere con noi. Buon pomeriggio Oscar e buon pomeriggio ai tuoi ascoltatori. Allora, partiamo col ricordare che cosa concretamente la riforma Gelmini ha introdotto per tentare di porre un limite al fatto che fossero, per così dire, per una percentuale troppo elevata gli interni. Come funziona oggi la procedura abilitazione e poi ascesa in cattedra? Allora, sì, diciamo che tra i punti principali di quella riforma varata nel 2010 c'era il tentativo di superare i vecchi concorsi locali che erano, diciamo, nell'80-90% dei casi pilotati, già si sapeva chi avrebbe vinto il concorso. E diciamo questa procedura, che è tuttora appunto in vigore, prevede innanzitutto la conquista da chi vuole ambire alla cattedra, la conquista di un'abilitazione nazionale, in sostanza una sorta di patente da professore da conquistare in base ai titoli e alle pubblicazioni che uno conquista. Questa abilitazione dovrebbe fare da un po' da filtro, no? Per alzare un po' l'asticella, e poi comunque resiste, diciamo, una selezione locale in base ai candidati che si presentano per quel posto. Ultima annotazione, diciamo, la riforma tra le tante cose cercava anche di aprire un po' gli atenei mettendo dei paletti. Ad esempio, un quinto dei docenti doveva essere assunto tra esterni che non avevano avuto rapporti con quell'università negli ultimi 3 anni, e l'altro paletto era che poi, diciamo, metà degli spazi disponibili per le assunzioni, non più della metà, doveva essere riservata a chi aveva fatto l'inizio della carriera all'interno dell'università, magari come ricercatore. Ecco, questi due paletti non sono stati per nulla rispettati. Che erano fondamentali perché stabiliscono dei tetti quantitativi, per così dire, sul totale di quelli poi chiamati alla cattedra, no? Esatto. Va detto ad alibi, un po' ad alibi dell'università, che sono stati, come per il resto del paese, anni difficili perché hanno subito un taglio importante, per cui probabilmente in modo fisiologico avranno in qualche caso, come dire, privilegiato chi si sono allevati all'interno, gli aspiranti docenti che hanno lavorato all'interno dell'università, però è indubbio che in certe università praticamente 9 professori su 10 vengono tutti dall'interno, e questo non è un bene. E tu hai fatto dei numeri che sono appunto più riccamente poi ed estesamente riportati nel rapporto, che dicono tutto rispetto a quei tetti, perché dice ad esempio nel 2014-2015 cosa succede? Ma diciamo che all'incirca su, mi pare, se ora non ho dietro l'articolo, ma insomma su 6.000 chiamate all'incirca 200-300 docenti sono i cosiddetti esterni, e diciamo quindi si è privilegiato l'assunzione soprattutto di ricercatori, i cosiddetti, tecnicamente all'università chi ci lavora sa che li conosce, sono i cosiddetti ricercatori di tipo B, che in 3 anni lavorano appunto a contratto all'università, se ottengono l'abilitazione possono poi rimanere a fare i docenti di seconda fascia, e questi sono quelli che sono stati privilegiati nella maggior parte dei casi. E dovevano essere almeno un quinto dei posti disponibili da assegnare, quindi siccome stiamo parlando di 6.000, basta fare il conto, dovevano essere il 20%, quindi dovevano essere 1.200. Esatto, no, ma poi come tu la citavi prima, il caso dei tributaristi a settembre, e il problema è che indubbiamente i posti non sono tantissimi, nel caso poi dei tributaristi si tratta veramente di poche posizioni. Sì. Lì addirittura la cosa clamorosa è che non si è andata a pilotare il concorso, bensì addirittura l'abilitazione, cioè la conquista della possibilità di questo titolo, questa patente per diventare professore. Siccome c'era un candidato troppo bravo in quella circostanza, se vince questo candidato troppo bravo toglierà il posto al nostro di candidato, quindi addirittura gli impedivano di conquistare l'abilitazione, gli consigliamo di chiedere l'abilitazione al turno successivo. Certo però che l'ascoltatore fa un po' impressione, perché rispetto a uno dei due tetti che aveva richiamato Marzio, cioè quello del fatto che non oltre la metà delle posizioni disponibili per i candidati selezionati dall'interno della stessa università, noi abbiamo punte di atenei italiani che invece ne hanno riservato l'84%, altro che il tetto non oltre il 50%, senza contare, sto citando direttamente l'articolo di Marzio, che ben 17 atenei non hanno ritenuto minimamente vincolanti i paletti che erano stati messi dalla legge. Cioè, che cos'è questo? Una libera interpretazione? Cioè, Esatto. Va detto che insomma è un mondo molto autoreferenziale, come tanti mondi nel nostro paese, e diciamo è un po', come dire, l'allergia a mettersi a aprire le porte ad altre energie esterne, che invece sarebbero probabilmente in molti casi, soprattutto per alcuni atenei, perché va detto che Italia, come per tanti altri settori, anche nell'università, ha grandissime eccellenze e altre situazioni invece in grandissima difficoltà. No, e questo poi tra l'altro è inutile dire, cari ascoltatori, che il mercato non valuta affatto il valore legale del titolo di studio come se fosse equipollente, nel senso che il mercato sceglie chi ha un titolo di studio di cui notoriamente viene valutata un valore di formazione del capitale umano superiore, e non è il fatto di aver conseguito un diploma di laurea in ingegneria qui o altrove del tutto analogo. Non è così, c'è un ranking rispetto ai quali il mercato, le imprese italiane e internazionali, nel caso per esempio di ingegneria gestionale e così via, sono attentissime, quindi c'è anche questo problema che deriva esattamente dalla situazione a pelle di leopardo delle risorse e della qualità delle risorse, che è figlio della proliferazione degli atenei, dei corsi, delle cattedre, che con la Berlinguer poi ha avuto un'espansione ulteriore. Dovevamo fare il baccalaureato modello francese nord europeo, abbiamo moltiplicato in realtà sedi, corsi e cattedre in una forma che è un po' analoga a quelle di una politica di welfare sociale piuttosto che di qualità. Arriveremo poi alle risorse, perché la parte mobile, la parte fissa del fondo finanziamento ordinario dell'università ripropone la questione, ce ne siamo già occupati, perché ovviamente le istanze egualitarie mordono il freno di fronte a risorse diversamente o comunque in maniera rilevantemente differenziata per premiare indicatori certificati di qualità. Però sono state scarsissime anche le chiamate, quelle per premiare, per l'eccellenza diretta, che è anche quello uno dei grandi fattori di attrattività per gli studenti, nelle aree territoriali ma anche internazionali, perché noi dovremmo anche pensare con il nostro sistema di formazione universitario di attirare capitale umano in via di formazione alla ricerca di eccellenza, che magari non può ambire direttamente alla Ivy League americana, Oxford e Cambridge o all'INSEE a Parigi, ma verso la quale noi avremmo forti potenzialità per formare il capitale umano universitario da quei paesi di provenienza, il che significherebbe essere più attenti appunto per questa attrattività internazionale, magari proprio anche a chiamate di chiara fama e così via, che era un'altra delle finalità della riforma Gelmini. Però anche su quello mi pare che invece i numeri che c'è la Corte dei Conti dicono niente da fare, non è stata ascoltata quella richiesta, vero Marzio? Sì, in effetti in 5 anni sono state circa 200 le chiamate dirette e solo 13 quelle per chiara fama. E tra l'altro, Oscar, magari nell'articolo non lo cito, ma c'è anche un caso che si è creato all'università negli ultimi 2 anni che fa capire anche questa difficoltà ad aprirsi all'esterno, e cioè un paio di anni fa il governo Renzi, fu lo stesso Renzi a lanciarla come una iniziativa che puntava al merito, si creò questo fondo Giulio Natta. Le cattedre Natta. Esatto, praticamente era una sorta di chiamata diretta, il governo aveva messo anche discrete risorse, ogni anno sarebbero stati chiamati 500 professori per merito, appunto, senza utilizzare le procedure normali e c'è stata una vera e propria levata di scudi levata dal di mondo scudi. Accademico. E anche in questa legge di bilancio, come quella dell'anno scorso, infatti il fondo viene eroso di altri 100 milioni, esattamente quello della cattedra nata, perché il sistema è egualitario nel nostro paese e dice figuriamoci se noi dobbiamo dedicare tutte queste risorse alla chiamata per merito di eccellenze affermatisi, già riconosciute a livello internazionale. A me sembra miopia, ma per carità, la mia è un'opinione di un senza titolo, quindi vale quello che vale. Ora, questo è ciò che riguarda il bilancio stilato dalla Corte dei Conti per l'apertura degli Atenei. Però è anche interessante la parte che riguarda il cosiddetto diritto allo studio, no? Cioè, su questo anche c'è una parte di dati di cui tu dai conto nell'articolo. Lì come andiamo? Lì andiamo veramente male, perché è forse unico caso nel mondo, l'Italia vanta questo primato, scandaloso primato di avere decine di migliaia di studenti che secondo i requisiti diciamo che prevede la legge avrebbero diritto, hanno diritto alla borsa, ma siccome le risorse non ci sono, la borsa non gli viene data, non gli viene riconosciuta. Si parla di 45-50 mila studenti l'anno, che soprattutto nelle regioni del sud, dove le regioni hanno meno fondi, non ricevono la borsa, che non è una borsa importante, sono mi pare 400-500 euro mensili, ma sono comunque un aiuto soprattutto per chi non ce lo può permettere. E per avere l'idea del sud di come stiamo messi, in Calabria 2 su 3 di quelli che hanno diritto non vedono questo sostegno, in Campania 1 su 2, cioè stiamo parlando di percentuali terrificanti diciamo sono più o meno rimaste stabili. Ora va detto che anche qui negli ultimi 2 anni la manovra, la legge di bilancio ha previsto dei fondi in più, una cinquantina di milioni, probabilmente non coprirà tutte le necessità però un passetto avanti è stato fatto. Resta il fatto pure che l'Italia è uno dei paesi europei con meno studenti con borse di studio. In Italia circa il 10% degli studenti riceve una borsa di studio, a fronte del 25% della Francia, mi pare la Germania arrivi quasi al 40%, insomma comunque a percentuali molto molto più alte, dove diciamo lì il diritto allo studio è riconosciuto. Tra l'altro in Germania per esempio, dove la percentuale degli iscritti totali all'università per oltre il 40% è a corsi, diplomi universitari, quindi formazione terziaria o post terziaria a carattere esplicitamente professionalizzante, cioè realizzate con a fianco delle imprese delle diverse, sapete che la competenza in Germania non è federale su questo, ma aspetta ognuno dei diversi länder, e in questo caso la percentuale così elevata di iscritti alla formazione terziaria o post terziaria professionalizzante è fatta direttamente con le imprese che finanziano le cattedre, hanno voce in capitolo nell'organizzazione e nell'offerta della parte direttamente nelle aziende dei corsi, oltre all'insegnamento frontale. Ecco, in quei casi la percentuale di iscritti che hanno la borsa di studio sale addirittura al 60-70-80% nel canale professionalizzante. In Germania funziona così, sono le stesse imprese che poi finiranno per assumere praticamente quasi a oggi in Germania praticamente tutti quelli che hanno un diploma di laurea di diverso livello professionalizzante trovano occupazione pressoché immediata, si trovano con la borsa di studio che è cofinanziata direttamente dalle risorse private, perché hanno un interesse diretto proprio nella modalità organizzativa scelta nell'evoluzione del tempo dell'istruzione duale tedesca a cofinanziare la formazione di un capitale umano che direttamente poi troverà impiego alla fine del percorso. Lo so che in Italia abbiamo una fortissima preclusione verso il coinvolgimento dei privati nella struttura della formazione pubblica, io credo che sia profondamente sbagliato, perché gli effetti misurabili nelle serie storiche di occupabilità dei giovani dovrebbero veramente indurci a qualche riflessione sui limiti della nostra impostazione del ciclo dell'istruzione terziaria, in cui il canale professionalizzato Pesante conta attualmente zero praticamente. Questo è uno dei punti di fondo che purtroppo ci spinge in termini molto bassi nel termini della percentuale sul totale della popolazione universitaria di coloro che vengono sostenuti, sia pure nei limiti di una cosa che non ti cambia la vita, però ti consente un aiuto senza il quale molto spesso ecco che poi avviene il fenomeno dell'abbandono nel nostro paese. Non voglio poi aggiungere, però è pertinente, riflettete cari ascoltatori, un paese che passa ogni arrivo di legge di bilancio 3-4 mesi, come puntualmente è avvenuto anche con la legge di bilancio attuale ed è ben lungi dall'essere finito, a parlare di pensioni e di risorse aggiuntive per sfondare i requisiti anagrafici di anni di versamento di età pensionabile, di vecchiaia o di anzianità, è ancora puntualmente avvenuto. Sui giornali di oggi trovate la sintesi, su Sole 24 Ore, a cominciare da quello ovviamente, dell'emendamento che ieri è stato praticamente accolto dal governo, che delude moltissimo la CGIL, delude anche i sindacati, gli altri sindacati che però non faranno giornata di mobilitazione, di cui la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto, c'è la tabella sui conti, i costi aggiuntivi che determinerà di qui al 2027 per 300 e rotti milioni. E paragoniamo tutto questo e una spesa previdenziale del 15,3% del PIL annuo rispetto al fatto che poi noi abbiamo regioni italiane in cui due studenti universitari su tre che avrebbero diritto alla borsa di studio non ci sono le risorse per pagarlo. C'è qualcosa che non funziona in una spesa sociale che per il 75% quasi è fatta per gli over 65 anni? Secondo me sì, e non sto criticando gli over 65 anni come se fossero i paperoni, non lo sono, ma rispetto al problema della giustizia intergenerazionale, questi dati sul diritto allo studio sono cose che la politica dovrebbe considerare in un'ottica di lungo periodo come un gap fondamentale per quel recupero di produttività che ci è necessario, perché la perdiamo dal 1995, da prima dell'euro. La componente del capitale umano è una delle componenti fondamentali della produttività, non conta solo la demografia, e anche lì siamo indietro per sostituire le corti che vanno in pensione ogni anno con giovani, ma la formazione del capitale umano è una delle componenti per alzare la produttività in termini orari e complessivi anche di organizzazione delle imprese, e dovrebbe essere considerato, oltre alla componente del capitale fisico, finanziario e degli intangibles, i quattro aspetti fondamentali della produttività da recuperare che noi abbiamo. Ecco, noi ci stiamo comportando l'università in questo modo. Naturalmente, Marzio, questi rapporti della Corte dei Conti poi lasciano il tempo che trovano, perché purtroppo sono ottimi esercizi per noi che poi li leggiamo e li diffondiamo, però non producono nessun effetto, o no? Esatto, purtroppo sì, rischiano di essere scritti sulla sabbia. E tra l'altro anche il rapporto in questa occasione non c'era la possibilità di raccontare tutto, sottolinea proprio il fatto che raccontavi prima te, cioè l'assenza di una formazione professionalizzante in Italia, che oggi viene praticamente gestita soltanto da una settantina di istituti tecnici superiori, che però diplomano circa 10.000 studenti l'anno a fronte dei centinaia di migliaia che fanno gli istituti. No, ma il numero è incredibile. Nell'anno 2015-2016 agli ITS che erano presenti in Italia erano iscritti 7.800 nuovi iscritti in quell'anno, quest'anno sono un po' saliti, esattamente toccando il punto che dici tu, e in Germania sono 740.000. Questo dà l'idea del gap, diciamo, significativo. E non pensate, cari ascoltatori, che sono fissato con la Germania. Il problema è che loro sono la prima paese manifatturiero d'Europa, noi il secondo, abbiamo dei mix analoghi, andiamo benissimo, faremo l'ennesimo record di export grazie ai nostri mix produttivi in cui cresciamo nelle catene di valore aggiunto globale. C'è un piccolo problema, che la nostra formazione tecnica è molto carente, ed è molto carente non perché i giovani non vogliono farla, ma perché non c'è l'offerta adeguata. Capite cosa vuol dire 7.000 iscritti di fronte a 700.000? Ecco, un gap di queste proporzioni. Che cosa significa? Bassa occupabilità dei giovani, eccetera, eccetera, eccetera, oltre che quello che vi ho già detto tra pensioni e risorse per giovani e famiglie. Allora, intanto, grazie e buon lavoro come sempre a Marzio Bartoloni e a tutti i colleghi del Sole. Noi adesso andiamo a vedere che cosa succede in borsa, un po' di pubblicità, e poi diamo voce a questa nuova associazione che è nata tra ricercatori universitari e professori universitari che hanno denunciato ciò che nei loro concorsi o selezione di abilitazione era illecito, lo hanno fatto pubblicamente e adesso vogliono dare voce a tutti coloro che magari, essendo analogamente vittime, in realtà poi il coraggio di fare questa denuncia non ce l'hanno, perché una volta fatto l'esposto ovviamente vieni marchiato con la I di infame e a quel punto sarà ancora più difficile riuscire a superarlo il concorso. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar. Eccoci tornati qui in diretta, sono le 16:39 primi, ricapitolo i dati, Corte dei Conti, ne ricapitolo solo due, Atenei ancora troppo chiuso in Italia, malgrado la riforma del 2010 che aveva messo due tetti perché le selezioni docenti avessero quote significative da esterni rispetto all'università, altro che quinto dei posti disponibili da assegnare, su 6.000 complessivamente chiamate nel 2014 e nel 2015 praticamente 300 e non 1.200 sono gli esterni, e rispetto al tetto degli esterni al 50% addirittura ci sono università che nel 74-84% la quota è solo quelli degli interni. Ecco, questo è il sintomo, per così dire, di un sistema che resta troppo chiuso. Sintomo, prova manifesta, altro che sintomo. E sentiamo rapidissimamente, prima di passare a questa associazione che è nata da chi denuncia le improprietà, illegittimità vere e proprie nell'ambito delle prove per l'abilitazione e poi delle selezioni per concorso, alcuni di voi che hanno telefonato per dire la loro opinione. Cominciamo con Germano che ci chiama da Pordenone. Germano, prego. Buonasera. Buonasera. Niente, la mia storia è semplicemente questa. Io per 12 anni sono stato insegnante a contratto presso l'università e da quest'anno non ho più il contratto perché è stata data appunto a preferenza probabilmente un docente interno, magari anche giusto così, non voglio fare, però magari così di colpo senza neanche chiedermi una consulenza, un parere per un passaggio anche magari di consegne, mi ha lasciato diciamo perplesso, ecco, questo comportamento. Ma lei per 12 anni ha continuato a coltivare, sì. Cioè ci credeva? Allora non mi sono mai fatto grandi illusioni, anche perché sono anche docente di ruolo nella scuola pubblica, quindi sì, non è che mi trovo a piedi, ecco, questo volevo dire. Però insomma, se, diciamo che l'illusione è sempre stata, sempre mi è piaciuto entrare nel mondo universitario, insomma, come docente pensavo di avere una certa validità, anche perché in fondo 12 anni senza problemi, insomma, pensavo che ormai di avere anche consolidato un po' l'insegnamento. Ecco, e però nel suo caso non ha funzionato, per così dire. Diciamo che non avevo neanche pubblicazioni, perché io ho sempre poi pubblicato libri riguardanti la materia, però per grandi case editrici non sono pubblicazioni scientifiche. Ah, certo, e quindi questo. Però, nella bibliometria sì. Non conta, o come devo dire, non conta allo stesso modo. Sentiamo Fabrizio che ci chiama da Milano. Fabrizio, prego. Sì, buonasera Giannino. Io sono un docente esterno, ma dico anche felicemente, perché ho sempre fatto altro, sì. e insegno in un'università privata, sì. Sempre come docente esterno, e sono sempre stato contento di farlo. Sì. Volevo sottolineare la questione dei contratti, perché praticamente da quest'anno l'input della direzione è stato quello di fare contratti ai docenti esterni titolari di partita IVA o titolari di società. Questo è stato una cosa che già due anni fa, con il prima riforma Poletti sui voucher, era passato da contratto a progetto, che è sempre stato così per anni, passò a occasionale. A occasionale, sì. Benissimo. Già con delle forzature, perché di fatto cosa ci sia di occasionale nel fatto di andare a fare esami, lezioni, ricevimento. Ma è la fantasia creativa del mercato, esatto, del lavoro italiano. Come devo, esatto. Poi sempre il ministero a luglio, tanto per non farsi mancare nulla, dice vabbè, mettiamo a posto i voucher, e cosa fa? Pensa bene di toccare anche l'occasionale, quindi adesso il docente che l'architetto che ha lo studio che dice voglio fare un corso come docente esterno piuttosto che il medico, eccetera, adesso deve avere o una società che fattura come una prestazione di servizi o una partita IVA. Quindi io vorrei dire questo, cioè è possibile che un docente, a parte che il carico, lei si immagini Giannino, se un docente fa un corso di 30 ore a un imponibile che è veramente... No, ma è chiaro, ma comunque i giri di vite servono come ovvio a sfoltire gli esterni, questa è una delle finalità non dichiarate, però servono a questi. Del resto, abbiamo dato i numeri, è un'università che resta chiusa alle procedure di selezione per le cattedre, ma riguarda attraverso le vostre testimonianze anche gli esterni, che poi sono parte dell'offerta complessiva ovviamente dei corsi interni dell'università. Sentiamo ancora Francesco da Piacenza, che mi si dice nella sintesi ha dei dubbi sulle metriche che vengono utilizzate invece nei concorsi. Francesco, prego. Certo, buonasera Giannino, io volevo proprio segnalare questo, ovvero che strumenti apparentemente imparziali e scientifici come le misurazioni di pubblicazioni scientifiche vengono sapientemente sfruttate dai baroni che poi hanno giudizio assoluto sulla validità di uno scritto. Io e lei potremmo tranquillamente andare a passeggio dai buchinist, da quei librai un po' pisciolosi che sono vicino alla stazione Termini e uscircene con circa 12-15 libri, con una cassa di pubblicazioni fatta ad arte per costruire carriere che adesso si può comprare con 3 euro come se fossero carta straccia. Questo perché molte pubblicazioni non vengono giudicate in base al mercato di studenti e professionisti che effettivamente le cercavano e le cercano tuttora, ma perché vengono giudicate dai baroni come più o meno valide. Quindi lei dice nella bibliometria lo spazio per la discrezionalità rispetto a chi crede che ci sia un impact factor per importanza, rilievo, che ne so, della testata scientifica che pubblica i papers e così via, è molto ampia, resta molto ampia la discrezionalità e quindi viene utilizzata da chi poi deve promuovere quelli della propria cordata. Allora, grazie anche della sua testimonianza. Adesso un minuto ancora di informazione sulle strade e poi passiamo a chi invece anima questa, secondo me, iniziativa molto meritevole, perché dice insieme ci tuteliamo meglio se diamo voce pubblica a chi è stato vittima di soprusi. Strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, e dopo aver visto i numeri di un sistema universitario che resta chiuso nelle procedure di selezione di nomina dei suoi docenti, la prova di chi si batte carte alla mano documentando le soprusi di cui è stato vittima, e quindi la nascita di questa associazione per trasparenza e merito, l'università che vogliamo. È con noi Giuliano Gruner, che è un ricercatore universitario, è avvocato ed è appunto tra gli associati che hanno fondato questa nuova iniziativa. Buon pomeriggio e grazie. Buon pomeriggio a lei, grazie infinite per avermi invitato alla sua trasmissione. E no, grazie infinite, anche perché avete storie, ciascuno di voi avete storie, insomma, certificate, come devo dire. A lei che cosa è accaduto? A me è accaduto questo, Giannino. Dunque, io sono ricercatore a tempo indeterminato di diritto amministrativo in servizio all'Università di Tor Vergata. Nell'anno 2013 ho conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per professore universitario di prima fascia di diritto amministrativo. E poi l'università ha cominciato ad effettuare le chiamate degli interni, e queste chiamate degli interni però venivano effettuate in tuitu persone, vale a dire ancorché all'interno dell'ateneo vi fossero più soggetti tutti nella stessa condizione, quindi nel mio caso tutti ricercatori a tempo indeterminato, tutti con l'abilitazione di professori di prima fascia, i dipartimenti sceglievano in tutto persone, senza alcuna procedura comparativa, chi chiamare nel ruolo dei professori associati. A fronte di ciò proposi un ricorso al TAR, rispetto al quale stiamo ancora attendendo la sentenza, quindi non ho la più pallida idea se verrà accolto oppure se verrà respinto, ma il punto non è questo, perché per il solo fatto di aver proposto un ricorso al TAR ho cominciato ad essere oggetto di quelle che io ho percepito come delle minacce, in particolar modo da parte del rettore del mio ateneo, Giuseppe Novelli. Ho registrato tutto, ma non perché io sia d'uso registrare conversazioni fra presenti, ho registrato la conversazione fra me e il rettore perché avevo già subito prima moltissime di quelle che ho percepito come minacce. Poi dopo questo unico colloquio con il rettore, che è stato trasmesso da molti mezzi di informazione, anche da Repubblica.it l'altro ieri, e tutti potranno ascoltare che non è un colloquio. Comunque ho subito ulteriori minacce, o almeno io così l'ho percepite, e la situazione a un tratto si è resa, devo dire, assolutamente intollerabile, e quindi ho denunziato tutto presso la Procura della Repubblica di Roma. E quindi la Procura della Repubblica ha svolto le indagini e le ha concluse. E il pubblico ministero ha richiesto per il rettore Novelli il rinvio a giudizio per i delitti di tentata concussione e di istigazione alla corruzione. L'udienza preliminare si terrà il 18 di dicembre prossimo 21. Tra gli 8 fondatori di questa associazione ci sono casi analoghi, c'è Giulia Romano, che è una ricercatrice di economia aziendale, che ha denunciato un presidente di commissione all'Università di Pisa, con registrazioni anche qua fatte dal marito. Ci sono c'è Filippo Neri, che stiamo parlando dell'Università del Piemonte Orientale, che per 6 anni questa università non ha neanche risposto alla sua richiesta di chiamata come professore associato. Cioè, tutti i casi dei fondatori sono casi patenti, non sono, per così dire, delle impressioni personali di gente non realizzata, sono casi documentati. No. Anche perché siamo tutti realizzati professionalmente e accademicamente, quindi non... Certo, sono veramente documentati che il fenomeno resta vasto. Esatto, è quello il problema, Giannino. Allora, il problema è questo. Io lo vado ripetendo sempre più volte, l'ho detto anche alla trasmissione del suo collega Ottimo Milan, che pure mi ha intervistato qualche giorno fa. Allora, qui di lagnanze sui concorsi universitari ce ne sono da sempre, va bene? Da sempre. Tutti dicono sempre: ah, quel concorso è truccato, ah, mi è stato impedito di partecipare a quell'altro concorso, mi hanno minacciato di ritirare la domanda e così via. Però queste lagnanze, Giannino, rimangono sempre private, oppure quando vengono, diciamo, esternate in pubblico, così vengono esternate in maniera generica. Secondo noi l'unico modo per tentare di cambiare questo sistema è quello di rivolgersi alle competenti autorità giudiziarie. Non c'è altro modo, che poi sono fondamentalmente sempre due, vale a dire la giustizia amministrativa e, laddove ricorrano episodi un po' più gravi, la Procura della Repubblica. Perché solo così si può ottenere qualcosa, perché finché ci si lamenta solo in privato oppure in pubblico in maniera generica, il sistema non cambia. Molti, e per questo abbiamo fondato molti però, alcuni li conosco personalmente, che mi hanno descritto casi del tutto analoghi e di valutazioni del tutto discrezionali per le chiamate rispetto ai titoli presentati, rispetto all'abilitazione conseguita e così via. Mi dicono: sì, però se io faccio un esposto, mi mettono il marchio dell'infamia, io all'università non ci metto più piede per tutta la vita. Questo è quello che mi viene ridetto. Ho capito, e quindi questo sarebbe una giustificazione per non proporre ricorso. Io sono d'accordo con lei, per questo infatti penso che voi, io spero che molti si iscrivano e che questa sia un'iniziativa che si diffonda, perché questo dà forza a tutti, dà forza a tutti. Esattamente, ed è per questo che l'ho ringraziata infinitamente all'inizio della nostra conversazione, perché uno degli scopi della nostra, anzi proprio lo scopo primario della nostra associazione, è quello di fornire supporto in modo da non far avvertire loro quel senso di profondo isolamento che si avverte nell'università quando si propone un ricorso, a tutti coloro i quali appunto intendano denunziare episodi di mala università per quanto riguarda specificamente le procedure concorsuali. Questo è uno dei fini che si propone l'associazione: non farvi sentire soli, cioè dire: guardate che noi ci siamo e vi supportiamo. Poi naturalmente nei casi più gravi, da statuto, sarà la stessa nostra associazione a presentare lei direttamente. Ecco. Quindi un sostegno diretto anche nelle forme attraverso le quali... Nelle forme sì, assolutamente. Nei casi più gravi a presentare denunzie presso le procure della Repubblica e... laddove sussistano i presupposti della legittimazione dell'interesse a ricorrere, mi dica io una brevissima risposta in termini personali. Quando ha iniziato la sua formazione giuridica, adesso è diritto amministrativo, quindi è una storia lunga, ma lei mai immaginava che l'università dopo tanti decenni ancora le avrebbe riservato questo tipo di trattamento? Ma guardi, francamente no, Giannino, no. Francamente nel 2017 no. Eppure no, io gliel'ho chiesto apposta, perché se uno dedica la sua vita professionale al diritto, per così dire, è naturalmente la cosa ancora più rilevante. Allora, grazie anche per questa iniziativa, uno dei suoi fondatori che è stato con noi. Appuntamento domani dalle 10 alle 12, Conti della Belva, dove parleremo di web tax, di legge di bilancio, commercialisti e contribuenti e naturalmente dello sciopero ad Amazon. Come è andato davvero? A domani.